Grazie. Buonasera. È vero, è più bello. Io sono abituato alla domenica mattina in genere, quindi oggi mi sembra di essere alla domenica mattina, perché più o meno i numeri sono gli stessi, però di sera. Mancavo, facevo un calcolo, però non perché il pastore non voglia, è più una mia scelta, ad avere occasione di condividere la parola di Dio la sera da quasi un anno. E quindi sono, come dire, onorato di poter essere con voi, parte della stessa Chiesa, però quella che forse più frequenta l'incontro serale rispetto a quello della mattina. La parola di Dio ci è stata data perché fosse detta, perché fosse presentata la domenica sera, la domenica mattina, ogni diversi incontri che abbiamo, ma ancora di più, la parola di Dio ci è stata data affinché fosse investigata, fosse a volte anche presa e con, come se avessimo un bisturi in mano, andassimo a tagliare le singole parole, perché se ne vogliamo scoprire il senso pieno di quello che c'è scritto, a volte bisogna fare questo lavoro un po' più minuzioso. La parola di Dio ci guida, ci ammaestra, ci trasforma, e se vogliamo che questo accada, beh, dobbiamo lasciarci trasformare, guidare e ammaestrare da questa parola, che è una parola sì scritta alla lettera, ma è una parola che sappiamo essere vivente, che non teme per autorevolezza nessun'altra parola, nessun'altra voce, perché è la parola del Dio vero, dell'unico Dio vero. Ed è questa certezza, con questa certezza che ci approcciamo ogni volta che qualcuno predica, ogni volta che tu sei nella tua stanza, a casa tua, e leggi la parola di Dio. Ricordiamoci che l'autorevolezza che c'è in quelle parole è l'autorevolezza che caratterizza Dio, quel Dio potente, quel Dio unico, quel Dio grande, quel Dio che ti ha salvato, quel Dio che ha speranza e futuro per te, tutto quel Dio che ben conosci è l'autore di queste parole. Quindi non sottovalutiamo nessuna delle parole che è scritta in questo libro. La riflessione che andiamo a vivere questa sera, come nasce? Da una mia domanda. Ho letto, così, nel mio piano di lettura, Romani 12. Stavo leggendo Romani 12:1, e conoscevo questo verso, e lo conoscevo a memoria, soltanto che siccome lo stavo leggendo sul telefono, quindi non sulla Bibbia, quella che uso normalmente, a un certo punto vedo qualcosina di strano. Dico, ma io questo verso me lo ricordavo diverso, e perché ora l'hanno scritto in questa maniera? E in effetti, sulla Bibbia, accanto a quelle paroline, c'erano, se avete l'applicazione della Bibbia sul telefono, tre puntini. Ho cliccato su quei tre puntini, ho detto, perché hanno messo questi tre puntini? E ho scoperto per incantesimo, non sapevo che ci fosse questa possibilità, che in realtà mettono delle note specifiche, specie quando ci troviamo di fronte a qualcosa come la cosa che andremo ad affrontare questa sera. Se possiamo vedere il verso di Romani, noterete benissimo una differenza. Facciamo un giochetto. Che differenza c'è fra questi due versi? Beh, ah beh sì, la versione, certamente. Sì. E quindi, in base alla versione, quale differenza c'è? Servizio, e dall'altra parte che c'è scritto? Culto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questo è il vostro ragionevole servizio. E detto, ma che sono sbagliati qua? Che è successo? E da qui è nata la riflessione di questa sera. L'Apostolo Paolo scriveva queste lettere in greco, e in greco la parola utilizzata per culto spirituale o ragionevole servizio era latreia logiche. Latreia è una parola che in sé ha il senso di servizio, ma il senso anche di onorare Dio. È assurda questa parola. È una parola che in sé ha il senso di culto, ma anche il senso di servizio. Non c'è un problema di traduzione, è una differenza letteraria, ma il senso, anzi, di avere le due versioni a disposizione è per noi la maniera per poter arricchire sia il concetto di servizio che il concetto di culto. Specifichiamo subito, il culto non è quello che stiamo facendo noi stasera. E lo capiremo benissimo stasera. Questo è un incontro. Avete visto che non usiamo più la parola culto in chiesa? Non è, è certamente per svecchiare un po' anche il linguaggio, ma qui forse troviamo anche il fondamento biblico. Questo non è il culto, perlomeno è una sfumatura del culto che noi possiamo dare a Dio. Il culto a Dio è il nostro servizio ragionevole. Il pastore ci ha abituati ultimamente alle ultime raccomandazioni. Romani 12 è posto praticamente a 4 capitoli prima della fine della lettera ai Romani. Eppure suona come una ultima raccomandazione. Qualcuno ha definito questo come una sorta di pausa che a un certo punto l'Apostolo Paolo fa prima di arrivare alla vera conclusione della lettera ai Romani. 4 capitoli prima della fine Paolo ha bisogno di fare un punto della situazione. Che cosa era successo? Prima Paolo ha trattato di temi straordinari e grandissimi, della grazia, della nuova vita, del libero arbitrio, della nuova esistenza, della nuova creatura in Cristo Gesù, e poi ha parlato di Israele storico, ma poi ha parlato anche del popolo di Dio in senso universale. Temi grandi, ma grandi, grandi, grandi, tutti quanti supportati da un concetto altissimo, che è più di un concetto, è la realtà, è la verità, la grazia di Dio. E a un certo punto, quasi esterefatto, ma probabilmente Paolo anche mancante di parole, perché non sapeva più che dire davanti a qualcosa di così tanto straordinario, si ferma davanti all'onniscienza di Dio, davanti alla sua sapienza, davanti alla sua grandezza. E poi vedremo, e dice delle parole: chi sono io, chi può essere qualcuno per potersi mettere a confronto con Dio tanto da potersi proporre quale consigliere o poter capire come Dio pensa e vede le cose. L'Apostolo si ferma e di lì parte col capitolo 12 e dice: vi esorto. Questo vi esorto dà quel senso di ultima raccomandazione. Vi esorto è vi incito, vi incoraggio ad avere un comportamento. Questa è l'esortazione che Paolo sta facendo. Ed è un'esortazione accurata, non è ok ragazzi, ora vi tocca fare questa cosa. No, sulla base di quanto aveva appena detto, di quanto Dio stava rivelando a lui personalmente, quanto apostolo, e lui come apostolo stava insegnando, ammaestrando i Romani, dice: fratelli miei, vi esorto. A far cosa? A presentare i vostri corpi. Andiamo a fare proprio un'analisi quasi dettagliata di questo verso. Qui Paolo dice presentare i vostri corpi. Ora, per corpo Paolo non intendeva, o perlomeno non intendeva solo questo, la parte fisica. Intendeva l'involucro che contiene tutto il mio essere, e quindi la mia mente, i miei pensieri, il mio spirito, ma ancora di più quello che io faccio con questo corpo, quindi la mia vita di tutti i giorni. Paolo sta dicendo: presentate voi stessi per tutto ciò che voi siete come un sacrificio. Il sacrificio era un'immagine ben nota ai Romani. Loro erano un popolo pagano, quindi pagavano un sacco di sacrifici ai loro dei. Ma era come simbolo. Il rituale sacrificale era molto conosciuto anche dal popolo giudaico. Ricordiamo che Dio aveva instaurato nella legge tutta una serie di sacrifici per poter chiedere il perdono o per poter ringraziare Dio. Quindi era un'immagine nota sia ai Romani, quelli pagani, che poteva essere compreso poi dai Romani che erano in fase di o comunque già in conversione, poteva essere compreso anche dal popolo giudaico se qualcuno si fosse fermato a leggere successivamente le epistole ai Romani. Era un'immagine che prendeva e prende ancora oggi tutto il senso di quanto Paolo sta dicendo. Prendi te stesso e sacrifica te come un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Qui la differenza. I sacrifici che gli altri conoscevano, che i Romani conoscevano o che il popolo giudaico conosceva, erano sacrifici morti, erano animali, non erano santi. Potevano più o meno piacere a Dio, però non so quanto di bello Dio poteva trovare in una colomba o in un agnellino. Sì, sua creatura, però. Paolo invece definisce me e te un sacrificio vivente, perché noi morti in Cristo torniamo a nuova vita. Ecco perché siamo viventi. Definisce me e te santi, non perché siamo perfetti o puri. Santi significa perché apparteniamo a Dio. E io e te apparteniamo a Dio. Dio ha dichiarato questo sulla tua vita e sulla mia vita. Noi apparteniamo a Lui e gli siamo graditi. Sì, noi piacciamo a Dio. È assurdo. Noi piacciamo a Dio. Più di un agnellino che non ha fatto nulla. Se proprio dovessimo mettere a confronto Luigi, un agnellino, credo che l'agnellino è più santo, più bravo, più perfetto di Luigi. Eppure Dio ha preferito Luigi, nella sua imperfezione, eppure gli piaccio tantissimo. Come fa? Come fa? Paolo, nel passaggio dal sacrificio, dal presentare i vostri corpi come sacrificio, mette al centro qualcosa di molto, molto importante, che è il fondamento, e vi dico già la conclusione del nostro messaggio, cosa che conosciamo tutti quanti, ma che qui acquisisce un valore così alto e profondo che io spero e prego ora in questo momento che rimanga nelle nostre menti come quel campanello, quell'allarme che suona a un certo punto e ci ricorda chi siamo in Cristo Gesù. Paolo specifica: vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio o per la misericordia di Dio, in base alle versioni, ma qui è la stessa cosa. Che cosa sta dicendo Paolo? Io, Luigi, posso presentarmi a Dio come sacrificio vivente non perché io lo scelgo, non perché io ne sono capace. Io non potrò mai essere vivente, santo e gradito. È per la misericordia di Dio e per la sua grazia. Paolo, con quel per, dice, quel per ha in sé il senso di causa, cioè io Paolo vi sto dicendo questo per l'autorità che viene dalla grazia di Dio e vi dico che voi potete raggiungere questo obiettivo che vi sto dando, la raccomandazione che vi sto facendo, solo e soltanto per la grazia di Dio. Non c'è nessun sacrificio, nessuno sforzo umano che viene messo in risalto, non c'è nessun lavoro specifico della nostra mente che deve predisporsi a diventare migliori, che deve predisporsi a diventare più bravi. Io sono figlio di Dio non perché sono bravo. Io sono figlio di Dio non perché l'ho meritato. Paolo dice, presenta te stesso come sacrificio vivente, santo e gradito, per la grazia di Dio. Non perché tu, Luigi, sarai mai capace di poter fare una cosa del genere. Quel servizio ragionevole, la treia logiche, quel logiche è una parola che ci suona molto familiare, il logico, è logico. Noi diciamo, è logico che. Perché Paolo parla di un servizio logico? Logico in base a che cosa? Di cosa sta parlando Paolo? Sta parlando di una logica che è fuori dalla logica di questo mondo. Perché non può essere che Dio, nella sua onnipotenza, nella sua santità, nella sua maestà, abbia piacere ad avere me come suo figlio. Non ci sta. Chi è questa persona così tanto santa e buona e perfetta che sceglie me come suo figlio? Non esiste. Lui, invece, in maniera logica, per la sua logica, ha scelto di amare me e te e di sceglierci come suoi figli. Di conseguenza, Paolo dice, di fronte a così tanta grandioso amore, a una grazia così spropositata nei nostri confronti, a noi compete fare, dare un culto spirituale che sia un servizio ragionevole, sensato, appropriato a quanto Dio ha fatto per noi. Domanda: sei capace di dare un culto a Dio? Il tuo servizio a Dio che corrisponda alla logica che Lui ha utilizzato con te? No. No. Non saremo mai in grado di poter, in maniera logica, rispettare la linea guida che Dio ha utilizzato nel momento in cui ha pensato al nostro piano di salvezza e di redenzione. Eppure Paolo dice, dai il tuo servizio logico a Dio. Quello ragionevole, sensato, appropriato a cosa Lui ha fatto per te. E quindi se Paolo lo dice, una strada da seguire ci sarà pure. Il versetto seguente, Romani 12,2 dice: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Paolo sta dicendo questo. Il tuo servizio ragionevole, il tuo culto spirituale, è non conformarti a questo mondo e lasciarti trasformare dall'opera di Dio, perché solo in questa maniera potrai fornire quel sacrificio vivente, santo e gradito. Se dovessimo, per un secondo, e lo facciamo molto spesso, distaccarci dalla logica di Dio, questo verso ci suonerebbe come una condanna. Sapete perché? Ci sono due imperativi, due comandi. Non conformarti e sii trasformato. Partiamo dal secondo, il secondo è un po' più leggero. Sii trasformato ci mette in una posizione passiva. Io non posso trasformarmi da solo, qui dice la parola di Dio. Ho bisogno che qualcun altro mi trasformi. E siccome la trasformazione di cui si sta parlando qua è quell'opera di svecchiamento del vecchio uomo per diventare nuova creatura ed un lavoro interiore che io non posso fare io uomo, è ovvio che è lo Spirito di Dio che opererà in me e mi trasformerà. Quindi questo primo imperativo lo accogliamo, come dire, con un po' più di gioia. Ma è il primo imperativo che ci risulta pesante. Non conformarti, non devi, il non devi. Vi piace? È scomodo, è scomodissimo. Non devi dire le bugie, non devi dire le parolacce, non devi odiare il tuo nemico, non devi rubare, non devi uccidere, non devi, non devi, non devi. Boh. Signore, ma tu lo sai benissimo che a me le regole non mi piacciono. E anche se cercassi con tutta la mia autodeterminazione di disciplinare me stesso, lo so che il fallimento è dietro l'angolo. E quindi Paolo dice, presentate voi stessi quale servizio ragionevole alla logica di grazia e di amore che Dio ha nei suoi confronti, come seguendo la via del non conformismo. Ma Paolo, come si fa a non essere conformi a questo mondo? Cioè io ci posso provare, ma non ci riesco. Però, quando facciamo questo ragionamento di fronte alla parola di Dio, abbiamo omesso una cosa. Quando ci sono degli imperativi nella parola di Dio, sono sempre legati strettamente a degli assiomi, a delle verità assolute. Guardate questi due imperativi a che cosa sono legati. Romani 11, 33, 30, sì, 33 al 36. O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio. Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo sì che ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Quegli imperativi sono legati a questa verità assoluta. Chi sei tu, Luigi, da sottovalutare l'opera di Dio? Chi sei tu, Luigi, da poter pensare a un certo punto che è impossibile essere trasformati davvero, non perché è il nostro desiderio, ma per davvero a immagine di Cristo? Quando io mi fermo e dico, non so se cambierò mai da quel punto di vista, non so se vincerò mai su quel peccato, io sto sottovalutando Dio. Paolo, dopo che ha parlato della grazia, ha parlato del libero arbitrio, e Paolo sapeva benissimo quanto era difficile, io voglio ma non ci riesco, non devo fare ma lo faccio, lui ne parla tranquillamente, parlando proprio di sé, in prima persona. Si ferma esterrefatto davanti alla grandezza di Dio, dicendo, chi siamo noi uomini? Per pensare che la sua opera di grazia a un certo punto sembra non riesca ad avere la meglio sulla nostra condizione umana. Io e te siamo stati riscattati a caro prezzo. E quel prezzo ha il nome che porta e conosciamo benissimo, è Gesù, figlio di Dio. Perché a un certo punto Dio ha dovuto pagare un prezzo tale, mandando suo figlio sulla terra? E per pagare il prezzo per me, per te, per donarci le capacità, i modi per poter diventare dei bravi figli di Dio? No, non ci dona le capacità per diventare dei bravi figli di Dio. Lui ci ha resi figli di Dio. Lui ci dà l'autorità e il diritto di essere figli di Dio, non per quanto bravo io sia nel rispettare le regole, ma perché semplicemente io ho creduto che grazia mi è stata fatta. La parola dice, a un certo punto, toglierò, prenderò quelle leggi da una tavola di pietra, da un foglio di carta, e le scriverò nel vostro cuore. Questa è l'opera di grazia che Dio fa. La regola non è la regola contestuale a dove mi trovo, come potrebbero essere le regole di un codice stradale, che pure interiorizziamo se ci facciamo caso. A un certo punto non ci pensiamo più neanche che al rosso del semaforo mi devo fermare. È diventata mia. È come se quella regola fosse entrata ora non nel mio cuore, ma nella mia testa. Dio, che invece lavora nel profondo del nostro cuore, mette le sue regole, se tali le vogliamo chiamare, le sue leggi, nel nostro cuore. Non è più l'opera che Luigi deve fare di rispetto di una legge, ma è la conseguenza dell'opera di ravvedimento che Dio sta operando nel mio cuore. Se penso al momento in cui c'è stato, come dire, un cambiamento in me, radicale, forte, devo necessariamente fare riferimento a quando mi sono reso conto, forte di me stesso, io sono molto forte, dico sempre che forse è una capacità che Dio mi ha dato, Dio mi ha creato così. Ho un certo controllo sulla mia mente, è molto molto forte, io posso convincermi, diventare caparbio in bene e nel male, questa cosa poi, e bah, non mi smuove più nessuno. È un punto di forza, chi mi conosce sa che io quando mi do un obiettivo, lo devo raggiungere. Può essere anche una cosa molto banale, ma io raggiungo gli obiettivi, mi piace raggiungere gli obiettivi, mi motiva. Datemi obiettivi e io incomincio a lavorare per quell'obiettivo, qualunque esso sia. Anche quindi da un punto di vista mio, umano, personale, voglio diventare una persona così e quindi mi metto a lavorare per diventare una persona così. Voglio diventare una persona così e mi metto a lavorare per diventare quel tipo di persona. Ma a un certo punto mi sono reso conto che non riuscivo più. Cioè, fino a un certo punto Dio mi aveva dato grazia di credere, perché Dio ci fa credere a volte, che siamo capaci di renderci delle persone migliori. Ma poi mi sono reso conto che in realtà le mie conquiste erano semplicemente frutto di una corsa che io avevo corso realmente. Ma il mio coach, l'allenatore, era Gesù. Era lui che mi dava le indicazioni precise sul ritmo da mantenere, sulle pause da fare, parlo tutto in maniera metaforica, sul tipo di alimentazione da avere, come cibare il mio spirito, di cosa cibare la mia mente. Erano ispirazioni, erano suggerimenti che Dio mi dava, erano le sue ultime raccomandazioni, non ultime, le sue raccomandazioni, me ne deve ancora dare tante, le sue raccomandazioni per potermi rendere una persona che rispecchi di più l'immagine di Gesù. Ma questo non significa che non piacevo a Dio. E quindi Dio vuole che io, per piacergli di più, debba diventare una persona migliore. Mettiamoci in testa questo. Per chiunque tu sia, piace a Dio. È fuori dalla logica di questo mondo. Completamente fuori. Eppure, la logica di Dio marcia su un altro binario. E noi, chiamati alla cultura del regno di Dio, questa sera siamo qui ad accogliere questa logica e a viverla in prima persona per noi stessi. Vivi per te stesso la grazia di Dio. Vivi per te stesso l'amore che c'è. A Dio piaci per assurdo, così come sei. E Lui ha il meglio ancora per te, che verrà. Ma oggi Dio è felice nel vederti, così come sei. Sì, anche come me, peccatore. Perché non è che io divento meno peccatore di ieri. Comunque sono sempre peccatore. Non c'è una differenza di quantità di peccato. Sono comunque peccatore. Eppure a Dio piaccio. Eppure Lui sta lì a dirmi, dai, che ce la fai. La meta la raggiungi. A un certo punto dobbiamo renderci conto che il nostro essere figli di Dio è frutto della grazia che Dio ha nei nostri confronti. Che il nostro aver conquistato un terreno che prima era di padronanza di un peccato è frutto della grazia di Dio per noi. Il fatto di essere qui questa sera non è frutto della tua scelta, è una parvenza quella. Non hai scelto tantissimo tu, Dio ti ha scelto. Tu hai detto il tuo sì, Ma Dio stava facendo il tifo per te. Non è che hai detto, oh, guarda, oggi quella persona è venuta a me. No, stamattina per chi c'era, Vito ha predicato questa immagine particolare in relazione alla parabola del figlio al prodigo. Non è il figlio che torna dal padre, è il padre che corre dal figlio. Questa è la logica di Dio. Tu a un certo punto hai avuto l'impressione di correre verso Dio, ma in realtà lui stava già correndo verso di te. Ti stava aspettando. Questa è una prospettiva completamente opposta delle cose. E quindi perché io devo rimanere nella prospettiva delle cose umane? Dove devo meritare, dove quasi sembra che a volte devo consigliare a Dio, dove a volte sembra quasi che devo contrattare con Lui. Se mi comporto bene, facciamo che tu mi benedici di più. Dai, questa volta ti prometto che non pecco più, tu però mi devi aiutare. Noi a volte facciamo così con Dio, ma è la logica umana. È la logica umana che Dio ce la permette pure, guardate, Dio ci permette pure di comportarci così, perché Lui conosce quali sono i nostri limiti. Però se vogliamo non conformarci a qualcosa questa sera, partiamo da questo, partiamo dal primo pensiero che facciamo quando pensiamo a noi in relazione a Dio. Io non merito nulla, io non posso nulla, non c'è nessuno che effettivamente possa darmi un aiuto reale, concreto, una soluzione vera e eterna se non Dio. Incominciamo da questo, incominciamo che il nostro conformismo sia nel pensiero primo della nostra relazione con Dio. Noi riflettiamo nella nostra relazione con Dio quello che è il rapporto d'amore che esiste fra il Padre, Dio Figlio, Gesù. Quella logica paterno-filiale che esiste fra di loro è la stessa logica che esiste fra Dio e me, tra Dio e te. Noi siamo Suoi figli e per l'amore che Dio ha per suo figlio Gesù, quel grande amore infinito è lo stesso amore che ha per te e per me. Cioè ci rendiamo conto di che amore stiamo parlando? Di quell'amore che Dio ha per suo figlio Gesù. Non può avere due logiche. Una sola logica, la logica dell'amore di Dio è la stessa, che si tratti di me, che si tratti di suo figlio Gesù. Perché lui mi ha adottato. E quando adotti, a livello legale, quel bambino diventa a tutti gli effetti figlio della coppia che lo ha adottato. Si dice, si fa sempre una domanda, chi sono gli effettivi genitori, quelli che hanno dato vita o quelli che crescono? Beh, Dio ci ha cresciuti anche, ci ha fatti nascere anche, perché è la sua volontà, è Lui il creatore. Ma a un certo punto poi ci ha adottati, divenendo effettivamente quel padre amorevole, buono, che spera e desidera per noi il meglio che ci possa essere. E quel meglio, sì, ha a che fare con i tuoi progetti, ha a che fare con la tua vita, ha a che fare con i tuoi sogni, ha a che fare con tutto il bello che c'è, ha a che fare anche col tuo servizio qui in chiesa, che è una parte del tuo vivere Dio. C'è molto di più. C'è davvero molto di più. Il tuo servizio a Dio è quel culto che tu dai ogni giorno a Dio. Paolo ha detto: presentate i vostri corpi, cioè tutto voi stessi. E quando diceva quello, io credo che Paolo stesse intendendo quando sei a casa, quando sei al lavoro, quando sei in chiesa, quando sei per strada, quando stai lavorando, quando stai guardando la TV, quando stai chiacchierando, quando sei da solo, presenta tutto te stesso come sacrificio. Il sacrificio, quello gradito a Dio, è un sacrificio che non scende dall'altare. Questa cosa non potete immaginare quanto mi è risultata scomoda. Mi risulta davvero scomoda pensarla per me stesso. Perché a volte sono sceso dall'altare, ho detto, beh, Signore, forse faccio un passo indietro, scendo da quest'altare di sacrificio di me stesso a te. Però poi senti che sei stato creato per stare su quell'altare, per dare te stesso al servizio di Dio, per dare il completo culto spirituale che io possa dare a Dio con tutto me stesso. E quindi chiedo perdono a Dio se sono sceso da quell'altare e mi ripongo sopra come sacrificio vivente, santo e gradito, non perché io lo sia. Questo ve lo ripeterò all'infinito. Non perché noi siamo quello che il verso di Romani 12:1 presenta, ma perché Dio ci rende tali per la grazia che ci ha fatto e ci ha dato. C'è stato un tempo in cui il servizio divino, cito, il servizio divino era strettamente legato al santuario terreno. Ebrei 9, primo verso. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Un verso che poi continua, che sta dicendo, c'era un momento in cui la presenza di Dio, la sua presenza poteva essere trovata solo ed esclusivamente nel tabernacolo, la prima chiesa strutturale, se così la vogliamo definire, nella storia, a partire quindi da Mosè, che si conosce. E quindi Dio chiede a Mosè di costruirgli un tabernacolo, una grande tenda, poi diventerà il tempio, dove la presenza di Dio poteva stare. Ma da quel momento ad oggi, al centro, se così possiamo dire, c'è qualcosa di estremamente importante che non possiamo sottovalutare. È venuto Gesù. E lì le cose sono cambiate. Sempre Ebrei 9, verso 11, ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta e per sempre nel santuario, non con sangue di capre e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno, offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Un'immagine piena, piena di significato. Ma tutto a un certo punto si concretizza in due concetti grandi. Gesù, dato per me e per te, per un'opera di redenzione eterna, affinché da noi vengano tolte le opere morte e noi potessimo servire Dio. Ci ritroviamo a quanto Paolo ha scritto ai Romani. Il motivo principale perché Gesù è venuto su questa terra è perché io e te potessimo tornare al progetto originario, che era fornire il nostro servizio a Dio. Un giorno in cielo cosa faremo? Serviremo Dio. L'uomo è stato creato perché possa servire Dio. E quando dico servire Dio, uso il termine latreia, il termine quello greco. Non servire nel senso che devo spazzare, anche forse. Dovrò dare una spazzata alle nuvole. Se c'è la polvere dobbiamo togliere, anche a me non piace. Quel servizio che venera, onora Dio. A quel servizio tu sei chiamato, io sono chiamato e Gesù è stato mandato affinché tolte da noi tutte quelle opere morte che risultavano ostacoli a poter tornare all'obiettivo principale che Dio aveva con l'uomo. Oggi noi, camminando in novità di vita, possiamo adempiere a quel servizio, che è il tuo e il mio culto a Dio. Con Gesù il culto ha fatto il trasloco. Da una struttura è passato al mio cuore e al tuo cuore. Ed è lì che lo Spirito Santo vive. Non perché il mio cuore sia pulito tanto da poter permettere allo Spirito Santo di poterci stare, ma perché Gesù ha pagato per me un prezzo. Il suo sangue mi ha purificato e ha permesso allo Spirito Santo di poter stare in me e lì lavorare a un processo di trasformazione che toglie da me le opere morte e produce in me trasformazione di mente, tale da potermi dare occasione di fare opere che siano degne, logiche, di dell'opera di ravvedimento che Dio sta facendo nella mia vita. Non so se sono stato chiaro. A un certo punto, la logica per cui io compio azioni buone, la logica per cui io ho delle giuste attitudini, non è perché io sia diventato bravo, ma perché l'opera di Dio di redenzione comprende il fatto che lo Spirito Santo lavori in me, mi trasformi da dentro e naturalmente io incomincerò ad avere opere di ravvedimento. La tua e la mia preoccupazione non deve essere diventare delle brave persone. La tua e mia preoccupazione, se tale la vogliamo definire, deve essere dare maggiore spazio allo Spirito Santo e riconoscere che chi siamo oggi è solo frutto della grazia di Dio e che dobbiamo reclamare ancora di più dell'opera che c'è di ravvedimento sulle nostre vite, perché Dio ha pagato un prezzo alto e quindi non facciamo in modo che quel prezzo a un certo punto vada così sminuito. Facciamo che l'opera di ravvedimento che Dio ha pensato per me e per te sia completa, sia totale. Tanto da permettere allo Spirito Santo di coinvolgerci completamente, di trasformarci completamente. Domenica scorsa il pastore predicava di non fare affidamento sul tuo discernimento, di non fare affidamento sulla sapienza umana. E questo, non pensare, non pensiamo, perché io sono molto bravo a pensare queste cose, di essere capace a un certo punto di essere un buon ministro di Dio, una buona persona, un buon lavoratore, un buon amico, un buon figlio. No. Se c'è qualcosa di buono in me, è frutto dell'opera che Dio ha fatto nella mia vita. E io onoro Dio per questo. Io lo lodo per questo. È qui che si rivela tutta la sua grandezza, è qui che si rivela tutta la sua pienezza, è qui che si rivela la sua illogicità per me. Perché dico, come hai fatto? Come fai ad amarmi? Non lasciamo. Che nulla è umano come pensiero, è troppo restrittivo, è limitativo, forse anche sbagliato, ma ci capiamo. Non lasciamo che la grazia di Dio sia stato, il sacrificio che Gesù ha pagato per noi sia stato un sacrificio vano per la tua vita e per la mia vita. Non parlo per gli altri, io parlo per te e per me ora, personalmente. Non facciamo in modo che la grazia che ci è stata data non venga sfruttata, fatemi usare questo termine, non venga sfruttata completamente. C'è un'opera di redenzione che è molto più grande di quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. E se come me desideri le cose grandi di Dio, se come me desideri una vita abbondante, se come me desideri una speranza eterna, accogli completamente la grazia di Dio, arrenditi completamente a Lui, sali su quell'altare. Sacrifica te stesso per tutto ciò che esso può significare. E Dio ti reputa vivente, ti reputa santo, ti reputa gradito. Questa è la sua dichiarazione d'amore più grande che possa mai poterti fare. Credete con me che c'è molto di più? Quel di più è per te ed è per me. Non è per qualche altra persona che deve ancora arrivare, è per me e per te. Che sei qui forse per la prima volta, che sei qui da non so quanti anni, non c'è differenza. Quel sacrificio vivente deve salire sull'altare ogni giorno. Io se domani non scelgo di salire su quell'altare, è punto e a capo. Però se dovesse essere così, Dio mi amerà lo stesso. E martedì dirà di nuovo, Luigi, sali. Riflettiamo con la nostra vita, la logica di Dio, che il nostro servizio sia ragionevole e sia ragionevole a quanto Dio ha fatto per noi. E non sarai tu ad essere capace, non sarò io ad essere capace, ma anche questo sarà merito della grazia di Dio, a far sì che il nostro servizio a Dio sia il più bel culto che si sia mai visto. Questa è la mia preghiera per voi, questo è il desiderio di Dio per tutti quanti noi. Preghiamo. Padre buono, grazie. Grazie perché ti abbiamo. Grazie perché ti sei rivelato in tutta la tua profondità. Grazie perché ti sei rivelato per chi tu sei. E la nostra mente non è capace a volte di poterti comprendere, la nostra mente a volte non riesce neanche solo a minimamente a viverti in tutta la tua totalità, eppure tu metti nel nostro cuore parole di fede, tu metti nel nostro cuore parole di speranza, tu metti in noi parole coraggiose che ci danno la gioia di vivere una vita spesa per te. E noi insieme come Chiesa, insieme tutti quanti, decidiamo costantemente, vogliamo chiederti aiuto in questo, che sia il tuo aiuto, che sia la tua forza, non la nostra forza umana, a salire costantemente su quell'altare, a stare lì su quell'altare come sacrifici viventi per te, che piacciono a te, che fanno la tua volontà e che per esperienza conoscono la tua buona, perfetta, accettevole volontà. Noi vogliamo vivere piacendo a te più di piacere a noi, amando te più, prima ancora di amare noi, sapendo che tutto ciò che poi di buono viene per noi è il riflesso dell'amore che tu hai per i tuoi figli, per ognuno di noi. E io prego per la tua Chiesa che quell'opera di riscatto che tu hai già fatto possa avere la completa opera messa in pratica, che possa avere un adempimento totale, che non ci siano limiti, che i limiti crollino in questo momento nel nome tuo, Signore Gesù, che le catene che ci tengono fermati si spezzino in questo momento, che i dubbi, che i nostri limiti mentali non possano essere mura che si alzano di fronte alla conoscenza e alla sapienza tua, e che sia l'opera tua che sfonda i nostri cuori, che ci stravolge, che scrive in noi la tua parola, che diventa vita, che ci trasforma, che ci cambia e che ci rende quei figli che desiderano fare la volontà del Padre più di ogni altra cosa. Io prego per la tua Chiesa, Dio, io prego per me, che insieme tutti quanti possiamo in unità vivere l'opera di redenzione che tu hai per noi come corpo di Cristo. Grazie perché ci chiamate a essere parte integrante del tuo corpo, Signore Gesù, e grazie perché sei tu che ci rendi degni di poterne essere parte, sei tu che ci rendi degni di poter essere chiamati una parte santa, una parte vivente, una parte a te gradita, Dio. Grazie per tutto questo. Amen.